vi siete, tutti e due? Certo che ci siamo. Chi è? Davvero, sei basso di radio. Perché c'avevo la presentazione chiusa, adesso meglio va. Adesso sì. Comunque questa storia del box mi ha dato un'idea, lo sai, in questo apparecchio qua. Cioè in pratica io potrei parlare tranquillamente, volendo, facendo dei collegamenti, usando il PMR sul canale 7, io posso parlare tranquillamente in 27. E l'apparecchio 27 mi fa la ripetizione. Posso ricevere e trasmettere. Adesso devo un po' studiarmela bene. Gira gira lo provo a vedere un pochettino, così me la vado in giro con portatilino, capito, quello il PMR a Sassari, e uso il 140 per parlare direttamente il 27, come fanno tutti gli altri. Ci sono un sacco di persone che usano questa roba qua, questi, i punti fatti così. Ho capito. Specialmente in Francia, cioè in Francia e in Germania ci sono. Chi è che mi ha detto poco fa, ma una terra ha detto a pilati del culo? Chi l'ha detto? Avanti, vieni. Alessio l'ha detto. Quando hai fatto la chiamata ti ha detto di prenderla in culo. Sicuro? No, l'ha detto Antonello, no, era una cavolazione. Stavo scherzando, Come sta arrivando in quella di Sorso? Bene, bene. Guarda, al mio gala che se arrivi un segnale di 5, però dovresti essere intorno 7-8. Anche io contraccambio il tuo segnale 8 a picchi positivi a 9. La modulazione è buona, ce l'ho. Sì, bellissima. Andave. Io te l'appoggio. E te la spingo. E c'è per una cosa, beh, se funziona. 1, 3, 4, 5, 6. Allora. Tac. E tac. Vediamo un po' se funziona. Cosa vedi? Guarda a vedere se ti sporge così la modulazione, la mia. Eccolo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, c'è un sistema box. 1, 2, 3, funziona? Certo, funziona Antonio. Allora, la modulazione, adesso si è salito anche il segnale, è ottimo per la truppa. Oh, Saverio! Ehi, dimmi tutto! Ehi, capo, forse abbiamo parlato insieme con Antonello poco fa. Stavo dicendo, guarda se così distorge la mia la modulazione. Guarda, tendi leggermente poco a saturare, però sei salito a 9 più 10, hai guadagnato segnale. Ok, e così la saturazione se n'è andata, vieni a vedere. Va benissimo, il segnale 9 più 10 qua, mio QTH. Capo, dai, ha passato potenza della radio a 0 e ho messo DV131. Guarda, io sto usando lo stesso BV131 in questo momento. È un Presidente Jackson. È un microfono a tavolo del B più 5. Capo. È buona abbinazione anche quella. No, io sto usando il Galaxy Saturneco. In pratica con quelli di Aletto. E come microfono lo Shure. È positivo, guardami, adesso sgancio, vediamo quanto perdo, che adesso lui è bello caldo, quindi sta dando quello che deve dare. Allora, ecco qua, adesso abbiamo sganciato, a quanto sono sceso? Da 5, che poi te l'ho detto il motivo che non è giusto questo segnale, sei sceso a 3. Ah, quindi qualcosa di guadagno già c'è. 9,5, 9,15 qua. Bene. Ok, ecco qua, così siamo agganciati, la radio rimane più corposa. Sì, è anche chiara, bella. Andavè. Antonè, da te a quanto passo? 9,5, 9,15. Sì, 9,5, 9,15. Sei tranquillo. Ma se c'hai quel difetto che c'avevo io, cambia di quel trimmer e sei a posto. E torna il segnale come prima. Alta la modulazione però, Antonio, sei basso di radio adesso. Basso di radio, insomma. 1, 2, 3, guarda un po'. Gava. È un po' bassino, là. Non sei forte. Questo è il microfono normale, non è stato con l'amplificato. Quello normale. Infatti non ti avevo capito poco fa cosa stavi dicendo. Ho letto se c'è lo stesso dispetto che avevo prima io nel mio di Saturn Echo. Cambia di quel trimmer, quello dello Smith, il segnale ti hanno dato mai, come quello che mi ha fatto impazzire a me. Ehi, ve l'ho detto di fare quello, ma non mi interessa, lo lascio fare così. Ma così, cioè, a volte si dà fastidio, cioè, devi segnare 3, massimo 7, 8, quelli forti, capito? Invece in quel caso non costa nulla, stacchi con il diavolo di trim, gli metti un altro nuovo e gli regoli stai andando, così ti sei tolto l'unghia dal piede. No, ma adesso perché ci ho staccato e spento tutto il giorno l'altro, se no sei rientrato con l'altro già è preciso. Ogni due ne hai di Saturn Echo, in pratica. No, uno ne ho. Ah, c'ho anche il capo. Allora, va bene. Ok, il mio messo. La verità della vita, ho sofferto un mese e poi la cazzuela, sono stato io stronzo, avevo fatto la cazzata che mi sono comportato da imbecille più che altro, come quanti posso dire, i primi tecnici quando si prendono il diploma, di non andare a prendere il pezzo direttamente lì al Fusano e metterlo nuovo. Invece ho preso il pezzo da un stampato che c'avevo io, che evidentemente era già difettoso da prima, e ho avuto un'incolata. Il discorso è quello, sono diventato scemo. Perché la stessa cosa che capita a un sacco di gente quando prende i pezzi degli apparati vecchi, li mette in quelli che si bruciano, e in pratica si trova a casa e dice, il filano non funziona neanche questa, quindi vuol dire che c'è qualcos'altro, piglia, cazzo, fa danno, eccetera, eccetera. Purtroppo il finale vogliono comprare nuovi dal negozio, il discorso è quello, mai a seconda mano, perché quelli recuperati così non funzionano mai. Antone, metti il microfono a tavola. Metti il microfono a tavola, ma c'è l'avvento, non so, va bene, se lo aggancio. C'hai rimane un po' cupa la modulazione, non è bellissima, eh. Vabbè Antone, però mi hanno detto che non è un transistor, dice che è una resistenza che si brucia, capito? E dove? E nel Galaxy, per lo Smith. No, non è assolutamente vero, è una resistenza, no? Cioè, una resistenza, un trimmer, non una resistenza, è un trimmer. C'è scritto 103, c'è poco da sbagliare, capito? Adesso sono con il microfono a tavola, va meglio? Caspita, molto più chiara e perfetta. Ma il processore è inserito, eh? Eia, processore inserito. Ma non pompa forte però, eh. Non pompa forte. Aspetta, ho sbagliato io. Vado adesso è cambiata la storia. Sì, la giornata-notte. Sì, è vero che si sente la ventola, però la modulazione c'è. Ho toccato la massa del microfono, la massa del microfono con le dita. Adesso devo controllarlo questa settimana, è un difetto che so già capito. Devo cambiare una commutazione di come è stato fatto il microfono e così sparisce questo difetto qua. Ma questo è più 5. Esatto, bravo. Prova, come ce li hai tu? Come ce l'ho? A maletta. Adesso cioè torni alti, eh. Adesso tu mi passi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, metti dall'altra parte. Ok, toni alti. Microfono a manetta a 10. Perfetto, distanza, come ti posso dire, 70 centimetri dall'apparecchio. Cappa, no, grazie, ce l'ho bene, alla grande. Confermi? Gava del Rogero. Ho staccato il box, sento la ventola, è troppo sensibile. Antonello era. Capo, pensavo che era una portante. No, ho attaccato il box, capito, il 140, volevo avere la sensibilità del microfono. è tocco sensibile, quindi si aggancia in automatico con l'avvento. Col microfono da tavolo sì. Dipende a quanto l'hai messo il Vox. Non lo so, non l'ho mai toccato io, la verità, è regolato così. Guarda che c'ha dei numeri, dovrebbe avere, parte da 1 sino a 10, non lo so. Lo so, lo conosco, non ti preoccupare, lo conosco. Si è stato il processore, aspetta, vediamo un po', adesso non dovrebbe agganciarsi, vediamo un po', aspetta un attimo. Un attimo di quel Rix da parte mia, sono qua in ascolto. Devo regolarlo, va da dietro, ci sono i due potenziometri, già lo so anch'io. Allora posso averlo? Capo. Sì, no, perché ne ho due di radio che c'hanno il box e vanno regolati. Sono quel Rix, ascolto, mi sta ascoltando, riprendo subito. Capo, sapete. Adesso se cosa faccio, lo voglio fare più che altro, fa. Dato che c'è il box qui, voglio collegare in pratica ingresso e uscita e voglio collegare il PMR su canale 7, faccio l'ingresso e uscita da lì e utilizzo il portatile per dire, sotto casa e in automatico mi aggancio il box, tipo ponte, capito? Ponte ripetitore. Capo, se va bene, sì. Bene, aspetta che attacco un'altra radio. No, già va bene perché un sacco di gente sta usando così. Ho attacco. Specialmente in Francia usano il PMR per parlare, poi l'apparecchio per trasmettere, quindi fanno con una specie di ponte ripetitore, capito? Quindi figurati tu. Va bene così, almeno me lo porto a passeggio, qualche portatile, posso parlare tranquillamente per dire me ne vado a Grenante, posso parlare con tutti con questo apparecchio qua, non sono a casa ma è come se fosse a casa in teoria. Tutto lì. Ora? Mi senti Antonio? Segnale 8. Ehi caprai, ancora è freddo. Ho appena acceso. Ti ascolto bene, ovunque ci mancherebbe. Capo, almeno questo mi arrivano segnali buoni. Già non credo, guarda, io con questo la pezza mi diverto perché ovunque chiamo mi rispondo immediatamente, come se avessi il telefono e la patata di mano, è uguale. Sento un tedesco, lo chiamo e mi risponde, sento un francese, lo chiamo e mi risponde, sento un coso, lo chiamo e mi risponde. Se uso per dire il 2009 ci vuole il cazzo di lineare su qualcuno, ci vuole, questo invece è tutta un'altra cosa. Capo, sì, bene, qui invece si sì, molto più alto del segnale, sì, 8 e mezzo, dai, 8 e 5. Figurati l'FM quanto arrivo, sarà 9.20 come minimo. Sì, penso di sì. Infatti vedi che non c'è Saverio, quando rientra vediamo quanto mi arriva Saverio. Qui Saverio arriverà, penso 9.10, 9.20, non lo so. Guarda, aspetta. Sono sempre qua in ascolto, vi sto ascoltando. Guarda un po', cos'è cambiato il radio perché per se ti arrivo più forte. Sì, mi arrivi un segnale di 7 modulati 8, mi arrivi tu. Leggermente più alto Antonello. Lui è più in alto e poi sta usando una 5 ottavi lui, Io sono più in basso con fronte a lui e sto usando una quarta d'onda. Anche, figuriamoci. No, va bene, arrivi benissimo qua. Poco fa attaccato mi arrivavi 5 e adesso sei 8 quasi, da, modulati, non quasi, modulati 6-8. Va bene, non ci possiamo lamentare, dai, facciamo quel che possiamo. Infatti ho attaccato il capo. tanto per farlo girare. A Parroggio, fa un passaggio. Vabbè, devi considerare che adesso sto uscendo con 10 watt, sto uscendo modulati, eh? Sì, già me ne accorgo, perché se porta anche tenuta 8 modulati 9, sta scaldando, quando scalda allora le puoi dare una smanettata. Io l'ho già tarato a 20, a 30, mi sa, 30 watt l'ho tarato, quando scalda arriva a 30, poi non si muove più. Ma qual è, 140 o che cos'è? 680. Ah, oggettivo. Va bene questo, va bene, lei che abbuglia. Mi è capitato, Antonio, un 440S, nuovo, ne vuole 300 euro trattabili, può scendere di qualcosina, però non mi sta rispondendo, non ho detto perché. Ma tutti tu, Vittorio, cazzo, e poi ti rispondo. A un certo punto, sembra che sia un, come posso dire, una specie di... di appiglio. So, chiamalo, provo a dire, va bene, ascolta, o me lo dai, se no te la prendi in culo e passi buone feste a un certo punto, me ne cerco un altro. Io ve l'ho detto l'altra volta, vai a Cagliari, ho detto, c'è con 140, ho detto, andiamo in macchina, andiamo assieme, cazzo, te lo ritiro, era un bel 140, nuovo, quella, 800 euro, tu no, adesso ho visto l'altro. Purtroppo le persone così mettono l'apparato così adesso, dopodiché lo tolgono, lo rimettono di nuovo e cercano un sacco di scuse che in pratica loro hanno messo l'apparato che nessuno lo voleva, eccetera eccetera, l'ho preso in giro, hai capito? E quindi a un certo punto aumentano il prezzo, il discorso è quello lì. Se tu avessi preso quello che ti ho detto io, quello da Cagliari, se avessi sceso a Cagliari, se a me, non costava niente. Solo te l'avessi fatto mandare per posta, direttamente per pacco, e ti avessi tenuto quell'apparato lì, l'avessi avuto direttamente a casa. Allora, questo qui si chiama Fabio Bassani, perché sono entrato nel suo profilo Facebook, gli ho mandato messaggi anche su Messenger. E non mi risponde, capito? E vive a via, mi sembra, comunque a Milano, là. A Milano. Vabbè, vuol dire che ha trovato già l'acquirente, non ti preoccupare. A 300 euro, una pericola del genere, non lo so, non so cosa dirti. Però cosa che ho trovato, mica ce n'era uno, c'era, mi sembra, non so, mi ricordo, c'erano 70 o 140. Devi andare a Cagliari, non costa niente, solo te lo fai mandare. Se lo vuoi andare tu, lo vai in treno, te lo pigli in treno, ma a meno che tu ce l'hai, lo provvedi e ce l'hai funzionante. Adesso sabato, tra lunedì e martedì mi arriva la KP1000, nuovo di pacca. Ho capito, perché io non c'avevo i soldi e purtroppo capita così, quando c'è da fare, non ritiri nulla, invece quando pensi ci sarà a fare, cazzo, si ritirano indietro quelli là, hai capito? Sarebbe bello trovare come dici tu, una pellicola del genere, evidentemente questo qui, non lo so. A un certo punto avevo detto, ma tu sei scema, da 800 euro, cazzo, dallo 440 vale per dire 400 euro, dallo 400, non rispondo a nessuno, lasci passare un po' di tempo, 5-10 giorni metti 400 euro. Se lo vogliono così, capito, il discorso è quello. A meno che non trovi magari... ce ne sono tanti di apparati, non è che c'è solamente uno. Devi trovare quello giusto al momento giusto. Sono pigliati in una sassari, se lo trovi a sassari, un apparato del genere, qualche rematore che non lo sta usando, ma direttamente a casa sua, questi sono i soldi, dammi l'apparecchio e va a far cuffia. Così non stai a girarti le balle, cazzo, di volta, a mandare i messaggi, non ti rispondono, No, questo qua l'ho visto perché stavo girando in quel gruppo lì e mi è capitato appena messo l'annuncio, capito? E ha detto 300 euro, 440, e ci sono le foto, nuovo, l'ha comprato da poco lui. Però ha letto che intanto praticamente ha scritto che non utilizza e se vuole rivende. Detto poco trattabile. Adesso mi abbiamo mandato subito i messaggi che sono manco cagato in striscio. Guarda che il 440 cioè, è difettoso, eh. E il problema c'ha? Il problema del frequenzimetro. Si fa tutto a puntini, stai attento. No, ho capito. Cosa stavo dicendo? Ma me la metto più. Perché il prezzo comunque è buono, 300 euro. Per dire poco trattabile, cosa vuol dire? Che te lo potrebbe dare anche 280. 300 euro, 280 euro, 440 S, mi sembra abbastanza onesto come prezzo, capito? Però vabbè, andiamo in offerta per quello lì. Adesso luce l'ho comprato da questo radioamatore, ho preso l'HP1000, quello strumento uguale a quello che mi avevi prestato tu, ma questo è proprio fiammante, immacolato, nuovo. Dovrebbe arrivare lunedì, martedì. Sei fiscato comunque, appena appena. Guarda, secondo me a posto di piatti il 440 se trovi un bel apparecchio, cazzo, come si deve, Sommercamp, non mi ricordo cos'è, un ZD, un 101, un FT101 uguale a 6 a posto, con frequenzimetro. Anche se è un modello più vecchio, 300 euro prendi dal volo perché ne vale 4,50. E c'è una bella radio, bella 27. Quanto il cavo ce l'ha? O se trovi un 140 o un 180, a 300 euro salve, prendi dal volo. Altro non ti posso dire, anche 320, tanto per dire, ma prendilo. Hai capito? Però 4,40 eccetera eccetera non è la capellina, non ti dimmi. Meglio, andrà bene. Dai, riprendi, un attimo sono qua, riprendo subito. Capo. E Antonio, se io tanto non lo trovi a quel prezzo lì. Puoi trovare il 140, ma il 180 non lo trovo. Io avevo trovato il 70, 380 la verità. L'avevo trovato, solo che ho preso l'affare perché in pratica mi mancavano i 200 euro che mi dovevo dare, capito? 300 ce li avevo, poi mi mancavano i 200, quindi non ho potuto pigliare i 80, ne voleva 380 euro, ne voleva la verità. Nuovo fiammante era, c'avevo la fotografia, lui mi ha dato addirittura il coso, tutta la documentazione per poterlo per potergli mandare i soldi, figurati la posto pay, il codice fiscale eccetera eccetera. Ma la mano non ho prestato 250 euro, solo aver preso 250 euro per uno stronzo, la verità. Meno male non ho fatto quello sbaglio, mi ha bloccato, guarda, la verità mi ha bloccato mia sorella, se no avevo speso 250 euro in contanti, avrei perso. Capo. Purtroppo sono radio che hanno tenuto un pochettino il prezzo, hanno tenuto. Perché vai a comprarla tu e ti danno, e te la danno 400 euro, una radio del genere. Poi quella tua la vogliono a quasi a metà prezzo, no? Meglio me la tengo io allora. Mi hai capito? Io la parete l'avevo già in pratica trovato. Avevo parlato con lui, avevo già programmato tutto, eccetera, eccetera. Ho detto, guarda, c'ho 50 euro, la mandato alle poste, gli ho detto, ti rimando direttamente, gli ho detto, tale giorno. E poi mi devono portare 200 euro, lunedì, devo andare dietro, diversamente il venerdì io, figurati. E lunedì ho detto, ti mando il resto. Cose. Mi ha fatto va bene, mi ha parlato tutto quanto, invece è successa una cosa, che questo qua in pratica questo amico mio in pratica il suo di me se l'è fottuto le balle, hai capito? Non mi ha mandato i miei 200 euro e meno male io non ho potuto fare le cose, il versamento di 2,50 perché non mi vuole mandare, ma il suo diritto di cittadinanza ancora, il venerdì, è capito il venerdì, e invece non c'era niente, sono stato anche fortunato, se non avrei perso quei soldi avrei perso. Sei stato proprio inculato, hai capito? Quello che mi ha dato fastidio perché altro, no? Non per altro. Avrei perso 205, ma la mano è stato fortunato, sembrava che un certo mi avesse detto, Antonio, ti blocco tutto in modo che tu non prendi questo apparecchio qua, se no perdi tutti i 250 euro in contanti. Hai capito? Ecco, sì. E vabbè. Poi questo me lo volevo vendere, poi ho visto che per darlo gratis non lo do, ma non neanche per soldi. Ancora svegli siete. Io sono il balacchino. Ancora svegli siamo, buonasera a tutti e due. Qui, ancora svegli siete voi. Ogni tanto ci si magna, quindi bisogna svegliarsi. Ciao Tonino. Ciao Tonino, ben sentito. Ciao Toto, so. Ciccio capo, è Ciccio che sta facendo un baracchino, che è un sciaramento. Chi è che vende, dai, che compro tutto io? Ah, lascia perdere. Questa è l'ora migliore per modulare, vedi? Ogni tanto svegliamo la gente, svegliamo. Vero è Tino? Insomma, io già sono preso da presto, mi stavo per coricare, ho visto, anzi per dire la verità stavo per andare a spegnere l'apparato, poi ho visto la portante e feci 5 minuti li passo, dai. Comunque dai, buonasera a tutti. Capo, buonasera a Tino, buonasera anche a Tonino. Avanti Tonino. Capo, comunque io sono a parte seriamente. Io compro tutto. Ho roba di 40.000 euro da spendere, non so come cazzo spenderli. Ma guarda che Tino si deve comprare il camper nuovo. No, lascia quello che c'è, va bene. Già basta i debiti che ho. No, ma io se trovo qualcosa di interessante la compro, i problemi non ne ho. Quindi, ho sentito quello che la vendo così, non lo vedo di meno, la prendo io, non la prendo più. Ciccio potete mangiare, ma perché volete vendere la roba a persone che non hanno soldi? Lui ce l'hai, Antone, hai trovato uno che c'ha i soldi? Vabbè, tu io mi hai comprato la parecchia a me, se tu figurati che io avevo detto il venerdì, il sabato non sono andato a baracchino, lui è venuto la domenica mattina alle 8:30. Prima mi ha chiamato al telefono, che il telefono ci avevo spento, perché era in carica. Mi ha suonato la porta e si è portato via, ha detto, dove sono gli apparecchi? Scegli tu quale vuoi, ho letto una, oppure ho letto il Saturnecco. E sappiate il 200 canali, il Nettona, quello che fa 10 metri e la 27. Mi ha dato 150 euro, quanto lo volevo io, se uno se, l'altro, li vendevo tutti lo stesso prezzo. Mi ha dato 150 euro e sono andato con l'apparecchio, la verità, me l'ha pagato in contanti, subito sono avanti. Se mi ha avuto formato con l'antenna, ha fatto 50 euro, sto subito avanti, no, non c'ho problemi. Però per i soldi non ho problemi. Ascolta, sto prendendo un Zodiac 536, se interessa. Forse vuoi di quei Zodiac antichi? E allora? No, non ho di quelli, ho anche un Intec 34 canali, il Miran 48 e qualcosina che ce l'ho, dai. Non mi interessa venderli. Guarda, dice voi che ne regalo 3 o 4 che dici si vici e buffio, se vuoi te ne regalo, che non me ne faccio nulla. Io sono preso posto e basta. E cos'hai di interessante? Ma ti dirò, guarda, no, non me lo voglio alzare a aprire il maglio che ho costruito. Io ho tutti i baracchini lì, ho dei baracchini proprio, ma antichi è vero, mi fa catezzare. Qualche uno funziona, l'altro non so se funziona, ma sono mille. Ma me ne faccio nulla, sono la madre chimi. Ma vabbè, guarda, io vabbè, già so benissimo che ho un amico che fa raccolta di queste cose qua, anche di roba vecchissima, sicuramente farà il museo della radio, perché ne avrà, credo, 300, 350, non so, ne ha parecchi. preso stazione fissa, eh? Sì, sì, così. Non mi dare, tieni, se ti interessa, cioè, se li vuoi regalare non c'è problema. A comprarli io non mi interessano perché non è il mio genere, però sappi che c'è qualche persona interessata se vuoi. Io sto prendendo una 38, se mi interessa, modificato, appunto da antenna di gomma, c'ha una Game Master piazzata sopra. Ok, dopo 7 mesi mi sono arrivato il TFR, in tanti anni di lavoro, e grazie a Dio sto troppo bene, più c'è la pensione, cosa vuoi di più? Niente, se io le regalo anche me le fosse venuta, capito? Io voglio comprare roba buona, recente e che funziona bene. Boh, basta. Andare, se vuoi non c'è problema, già mi avvicino e li prendo. Fammi sapere quando vuoi. Ma per me anche domani non c'è problema. Ce l'hai il mio numero? Ah? Il mio numero ce l'hai? Sì che ce l'ho. Beh, allora chiamami, poi ci sentiamo, va. Domani ti chiamo, dai. Copiato mi avvette. Chi è che vuole vendere? Chi è? Buonasera. Doni, sto vendendo un pezzo unico, un Alan 38 modificato. Gli ho levato l'antenna in gomma e gli ho messo una Game Master avvitata sopra. Esce che è una cannonata. Ci riuscite a tenerlo in mano? Ma non ci deve essere il vento, però. No, a me verrà che i piccolini non mi interessa, per il Kimwood. Gli hai eso. Ehia. Andare, va bene, buonasera comunque. Oh, yeah. Non fare come una volta ci hanno fatto uno scherzo, ma eravamo alle prime armi, ma parlo nel lontano 89, eh. E allora c'era Lando e Nattalino Alfa 1, gli avvia centrale, volevo fare, eravamo in macchina, cioè, ci prendevano per il culo, per le prime armi. Alla fine mi ha detto, ma se volete, ci volete trovare, noi abbiamo la 127 con la mantovano sopra la cappotta. Cazzo, noi difendete la 127, oi! Certo, la mantovano sulla cappotta. Anzi, quello l'ho visto su Facebook, l'ho visto. Siamo informati da cosa, come si chiama? La freccia. Ma così. Ma allora l'antenna mantovana. E chi sarebbe andato la capisciuia? Chi sa si capotteggia. Insomma, che noi ci abbiamo fatto scherzi a controllare il piede delle candele per scaldare di più, per fare più forte il baracchino, però ci sta, però eravamo le prime armi anche noi. Prima se ne facevano tutti i colori, se ne facevano, non come adesso. Allora eravamo più ragazzi, ti. Lo sentivi, vedi, questo è il nostro. Poi ti è parlato in due. Ho detto, stavo dicendo a Franco, che quando entrava qualcuno nuovo, lo prendevamo di mira, nel senso che io giochiamo un pochino, vediamo un pochino e lo facciamo nostro. Ehi capo, comunque ti avevo sentito, anche se avete parlato in due, ti avevo sentito, tu li superi tutti. Ehi vabbè, noi siamo un tiro di schiocco, Fra. Oh Franco. Ehi ya. Ma cos'è che stavi vendendo poco fa? Niente, io non vendo niente, mi tengo tutto quello che ho, c'ho poca roba, me la tengo. Ah, io vedi qualche cosa di buono. No, mi tengo tutto. Guarda, sono quella che sono della mia vecchia, il capo, poi c'è un gara che è stato un ecco, c'ho la Presidente Lincoln, 48, 548 SX, boh basta, non ho giocato. Un altro Galaxy lo prenderebbe volentieri, già ne ho uno. No, quello me l'hanno regalato, è nuovo, e me lo tengo. Tonino, dimmi tutto. Guarda, se tu ti prendi una casa 5005 e dimensioni inferiori al Galaxy Saturn F, ma le stesse identiche e capacità e cose, anzi forse esce anche meglio. cioè che baracchino è? È un Intec, si chiama ATR 5005, ed è come le, tra virgolette, il Pluto, vai, Galaxy Pluto, una cosa del genere, però sai benissimo che il Pluto e il Galaxy sono gemelli, e questo è facile anche a manipolare ed esce veramente bene. Ah, guarda che ce l'ho anch'io un fax simile uguale, eh. Antonè, quello che mi avete venduto a me è uguale ai canali che ce l'ho stato me, come? L'NA, cioè il 5, come cavolo si chiama? L'N 5, se non mi ricordo, Nightona 555. Esatto, c'è anche il frequenzimetro da quanto. La TR555, vabbè, questo qua è 5500, poco cambia. Ah sì, no, ma tu stai dicendo quello grigio? No, è nero, sì, grigio, diciamo che il nero, nero è la, il frontalino, il grigio è la cassa, ecco. È tutto nero, faccio io. KT. Guarda che quello lì mi sembra che abbia 100 watt, mi esce con 100 watt quello lì, mi sembra. No, questo che ho io no, questo che ho io fa, vabbè, l'ho fatto modificare e fa da mezzo watt a 28 watt modulati, ma di più non va, eh. Capo, perché ce n'è uno grigio che mi sembra che esce con 100 watt quello lì, infatti se lo fanno pagare un bel, ce lo fanno pagare. Antonè, quello che invece ho preso da te, quanti watt c'ha? Un pugno. Si è gonfiato, lo sapevo che si gonfiava. È dormito, guarda che in mano. Si è gonfiato, che adesso fa anche le bolle del muccio al naso. Che è al telefono, dimmi. Ah, quello che mi hai venduto tu, quanti watt esce? Quello esce un bel watt, esce, non è che esce 10 watt. Era molto, ma molto di più, poi c'ha l'effetto ecco. Addirittura è tutto il resto, fa anche 10 metri, era di Natalino addirittura, tanto quella giusta, poi Natalino poi si è incazzato perché era volata a te, la verità. Quando mi detto guarda che ho detto barattino, ho detto una paglia, ho detto un attomino, e si è incazzato, ma non cambia nulla la tolle, tu me l'hai pagato, quindi non è successo niente. Quando me l'ho preso io una pagina, io l'ho dato a te, c'ero 50 euro, tutto lì, non è che abbia preso di più né di meno, come ho preso anche Saturn, c'ero 50 euro da Colottone. Ma perché ci deve incazzare? Lui te l'ha venduta, tu puoi fare quello che vuoi. Tu te l'hai venduta, perché ci deve incazzare, non ci offrisci. Ma che caiette, boh. Vabbè, lo sai, c'avevate fatto quei problemi, eccetera, eccetera. Detto, guarda che, e là, per una persona normale, detto, non te la devi prendere con lui, eccetera, eccetera. Quindi, tu io non ce l'ho con te, altrettanto, quindi... tutto è finito lì, anzi è rimasto anche contento la verità Natalino, quindi tranquillo, è solamente quel momento lì, capito? Allora, Torino, eia, se vuoi a parecchi ce ne sono un bel, guarda adesso ne ho visto uno, questo qui è dove c'è uscito. Kenwood DS711 a Foggia, 310 euro spedito, con scheda Tony inserita, l'ho messo. Ah, il basso gli 11 metri pure. Questo non so dire, popo. Kenwood DS711, aspetta che lo ricerco. E cosa ne so voi, popo? I tuoi a me non mi risultano nel 711 per la 27, la verità, comunque si dica. Deve essere qualche apparecchio VHF, è quello. Va bene un apparecchio un FT101ZD, che quello è bello, la verità, 100 watt d'uscita, anche se più vecchiotto del 140, però pompa 100 watt d'uscita, tanto per dire. Poi vabbè, c'è il 80, c'è quello che ho io, a un certo punto vanno bene, non c'è nessun problema. Non è che ti può pigliare un VHF, non te ne vai nulla. Agita. Allora, mercatino del ragamattino. Vendo bellissimo Kenwood TS711E con scheda Tuni opzionale installata. Non è nato con la scheda Tuni, è stata installata dopo. Microfono originale, cavo di alimentazione, manuale di imballaggio originale, tenuto benissimo e funzionante al 100%. Spedizione compresa, 310 euro, Foggia. Cos'è, chi è che sta innescando forte? Antonio, tu sì. No, grazie a Dio no. Ma sicuramente è Rattino che non esce. Ui, non si cupe di nulla. La faccio tutto, tizio, ti do quei vecchio che funzionano bene. Aspetta, lascia perdere. Che questo entra dentro il computer, che se mi spalla anche il computer. Comunque non lo conosco questo modello, però lo sto guardando in foto, è bello. Ma ti posso dire? Allora, qua ci sono 144, cioè adesso non è scritto nella foto delle... Questo va bene, fra. 144, 780. Ah, bene Paola, sta innescando. L'altro sta entrando dentro il computer. Ho sentito. No, questa è bella la modulazione. Questa, Tony, questo è quello che sto facendo io, la PR5005. Comunque. Ah, piacerebbe grande, bella, nuova, capito? È grande, bella e dura, va bene. Questo è grande, è bello. A vederlo è fatto nuovo, 110 euro, compresa di spedizione. Va bene, signore, dai, che domani devo andare a trabacco. Vi saluto, ne approfitto ormai, vi saluto a tutti, dai. Saluto a circolare tutti quanti. Alle prossime, riprendi fra. Ciao a tutti. Cappa, ciao Tino, buonanotte, buon tutto. Buona giornata per domani, ci sentiamo alle prossime. Avanti, Tonino. Ciao Tino, bravo, vai a lavorare, che lavora anche per me, che ormai mi ha dato il lavoro l'Ips, non è altro. Ciao, buonanotte, ci sentiamo domani. Sì, ma è un lavoro di piacere, non è che mi hanno perso contributi per domani. Peccato, anche quello mi dispiace allora, quindi. Guarda, fammi sapere, ciao. Io, ciao domani. Avanti, Sabe. Via. Ciao, sì. Buonanotte, buon lavoro per domani. Buon cuore di te. Ciao, ti, ci sentiamo domani. Buonanotte, buon tutto per lavoro. Anzi, buon lavoro, buon pranzo con le bistecche di maiale. Tanto vai, tu mangi, c'è il maiale, barbato. Mi, pompo, Sommercamp. FL101, perfettamente funzionante. Insomma, il cap bello 101 ZB, quello c'è frequentimento, quello è bello, lo usavo santo satellite, e usciva a 100 watt, era un demonio quell'apparecchio lì, a meno che non trovi un FT7B. Il problema è che 7B c'ha la ricezione che è stretta, però esce di cifato uscita in AM e 50 sono in banda laterale. Ed è bello, ce ne sono tante di quelli là, ce ne sono degli apparecchi, li avete per forza allineata agganciato. Però c'hanno un audio, c'è lo spino fa 4, c'è un audio allucinante. È bello, decametrico, fa da 3 mi sembra, se non mi ricordo male, a 30 megahertz, ed è perfetto. Lo stanno vendendo questo Sommercamp, ma è da tarifo a metà anni, stanno vendendo 200 euro, allora, lingua inglese, in italiano, valgono 20 euro, sono quelli, i contatti sono via telefonica, vabbè, comunque viene un bene che il radio, si inacciappano un bel. Comunque io il giorno 23 sono partito da Roma, per ritorno il 24, se trovo Roma buona con pareggio chili. Se trovo qualche basilea, aspettate la a Sassari, almeno cazzo ci facciamo i soldi. Lì fanno i mercatini, lì, Tony. Cosa? Lì fanno i mercatini in quelle zone. sei in quelle zone, io oggi ti manco quelle zone della zona, ti bottiglia monta. Ehi capo, ma so che fanno anche i mercatini della radio lì, basta informarti. Ehi capo, non so se la fanno a Trastevere o Mare Zucchero Vazio, non lo so. Ora comunque sapi, io l'antenna non l'ho ancora piazzata, No, dovevi gara? No, sto facendo sempre i lavori e sto continuando adesso la parete di quello che dovevo prima e quindi ne ho anche per lunedì continuare. Domani devo fare altre cose e quindi sono sempre incasinato. Se no faccio manco un tempo di riposare. Sono con la schiena a pezzi. Anche io ho già giocato un bel goccio. Ma le cose sono stanco, infatti non ci mancherà molto a coricarmi. Ma ci credi che mi vogliono più lavorando, cazzo, che come ero prima, che stavo meglio? Cazzo, ragazzo, su compensione si trova niente più di prima, cazzo. E andava adesso, di là. Non le male più, però... Voglio cazzo chiudermi, guarda, staccare il telefono, il baracchino, tutto. Alziamo una ghita, coccato, ah. Ma che bella di tu. Ma puoi fare, Tony? No, che poi si spaventano, vengono a rompere le palle, dicono, ah, ti è successo qualche cosa? No, perché? No, perché devi venire a farmi questo. Hai capito il casino? Io mi devo partire, infatti me ne parto, cioè, vedi tre, mi gioco pure a Roma, stacco tutto, buonanotte. Tu pensi che ci faccio già un biglietto, adesso allora ritorno. Io, Tony, non ho giocato più un nutto. Anche se mi sarebbe piaciuto rientrare qualche mese, ma però non ha giocato, da quando sono andato, non ha giocato più nulla. A me mi manca la verità, io ho detto tra i miei ex colleghi che mi manca. Mi manca perché mi tiene molto occupato, capito? Giravo tutta la provincia di Sassari, è diverso, dai, trovo un pezzo. Vabbè, è arrivata l'età purtroppo, è pazienza. Capo, e infatti, è quello il problema, che è arrivata l'età. E ora ci vogliamo fare, pazienza. Anche a me mi manca, mi sarebbe piaciuto rientrare come ti ho detto poco fa, però non ti va per rientrare. No, assolutamente. Oia, e te Antone, senti dure il suo baracchino? Sì, questo sì. Adesso me lo faccio come porta radio, me lo faccio addirittura. Siccome c'è il box, gli aggancio il TMR e lo uso come porta radio. Mi uso i portatili, me li porto a passeggio, il PMR, e parlo tranquillamente con la 27, come c'è una frequenza che è la 27335, in FM, dove c'è un conto radio simplex, cioè. Mi aggancio a quello, così me lo parlo con tutta la zona delle, come si chiama, della Romania, eccetera, eccetera. Basta andare sul coso, che c'è... sul telefonino o a chi tacchi ma su si chiama e pare con tutto il mondo. No, cioè c'è bisogno, non ti preoccupare, se tu vai 27:35 la sera c'è questo ponte radio, tu fai 1, 2, 3, 4 e ti senti e ti risenti la voce tua dopo 2-3 secondi, la stessa identica voce tua e c'è il bip finale. E quindi io mi aggancio lì direttamente in FM col coso e così utilizzo quel ponte lì e faccio in pratica una cosa di lusso e mi diverto. Me ne esco con un portatile per dire in PMR, me lo metto sul 7, 8, quello che è, e poi aggancio questo apparecchio qua e utilizzo due punti. Dipende di così si muore. Accendi fra, quante cose vuole fare Antonello? Non passerà assai che si vede Murughiscio avanti fra. No, la risa di prima. Già c'è la. Dai, lo volete ora che mi prendo 440, se no no no no. Sono passati 16 anni da 80, mi dispiace. Finisci. Non si muove più. E le 140. L'unica cosa che mi è rimasta, mi guarda, è il Comics 4000, che ce l'ho qui, con frontalino del 2009, e il 2009 con frontalino del 4005 omologato. In più, l'apparecchio omologato che ho pagato nel lockdown, cazzo, veniva a 60 euro e me l'hanno fatto pagare 85, cazzo, te l'immagino, la razza vinculata che ho preso, cazzo, da internet. Mai più comprare roba da ricca, mai più. ci può essere il lockdown, cazzo, la guerra, ma sarà pronta in cura, abbia la roba del genere, cazzo. 22 euro cazzo di spedizione, ma sto scherzando, 22 euro cazzo, mi ci usciva cazzo un coso, mi ci usciva cazzo un pacco da 50 uova cazzo di gallina. Ma se a me il Galaxy me l'ha dato uno di Cagliari, invece il Galaxy è preso lo stesso me, e ho pagato di spedizione 19,90 euro, 20 euro. Sì, ma quello pesa, ma hai visto il mio ZX40 che pesa neanche 40 grammi cazzo. E bocca adesso è tutto casino, e Savi, subito di sì. Oh, sto guardando questo mercatino dell'animatore, capito? Adesso mi saltato questo passaggio, approfitto e vi saluto. E domani! Domani si lavora! Ragazzi, Rudy, già devo impacciare poco domani in pizzeria. Sono andati a sveglia presto, si rientra a trabacco. Dai, vi saluto, un abbraccio e buon proseguo di nottata. Beati voi che lavorate, ciao, ben sentito, Savi, buonanotte. E non ti sognare le pizze stanotte, che devi trovare domani. Ciao, buonanotte. Avanti, Fra. Via, ciao, Savi. Buonanotte, buon tutto, dai. Ci ascoltiamo alle prossime. Ciao, Savi, ci sentiamo alle prossime. Adesso, in seguito, sono pronto a prendermi, come si chiama, le 27B, guarda. Come lo trovo, me lo prendo. L'apparato del cametico, quello a manovella, cazzo, quello è bello, cazzo. Ah, una cosa di uso, quando afferta, può parlare anche del coso, del cane, nel cane a fianco, non lo sento. E io ripeto, ma se c'è qualcosa di novità, tanto sono da Roma, adesso 23, giorni di parto. Vabbè, volentieri sì, a domani sono 12, tu che è molto recente. Cazzo, ho pagato poco il biglietto, ma andate a ritorno, Corona Italia, 138 euro. Beh. A te non sa che sia... la fregatura che sta andando adesso, amico, negli aerei, amico. Che c'è lo sciopero perché cazzo non sono pagati, cazzo, a parte di essere pagati non mi sembra 9 euro a ora, sono pagati mi sembra 3-4 euro, e fanno lo sciopero così istantaneo, se non rimani su tu rimani a Roma, te lo dico io, e prima informati bene, poi andate ritorno perché c'è il problema del salario minimo adesso. Antonè, mica l'ho fatto stamattina in agenzia me, e devo andare il giorno 21 che mi fa il check-in, e non faccio neanche il check-in, vado le 3 metri alternato all'aereo, ma ah, cosa mi dice, io non le prendo su via internet i biglietti. Il problema lo sia Fantucci. No, si chiama un altro nome, non è più all'Italia, eccetera, quello che hanno fatto azzurro, eccetera, capito? C'è la bandiera italiana però nella coda. Comunque, già va bene, dai. Io mi aspettavo qualcosa di più, vabbè. Quando hai detto c'ho 38, non ci dice, fammi l'impresa, io via. Non hai pagato, va bene, sì, va bene. Siamo andando a Roma, a muro, Fai, a fine farene. Ma devi capire che sono anche residente e c'è lo sconto, capito? E quindi devo andare a forza. Sono obbligato, devo andare perché è una cosa che ho sempre desiderato da tanti anni e invece è avverata questa cosa qua e mi hanno chiamato. Ecco, buono per te. Chiara, capita, io l'ho messo in mezzo giù, marca risate. Vai in Vaticano, Tony, vai in Vaticano da cosa, dici, ascoltami, mi mettono a firma. Almeno ti fai la fotografia, ti fai un selfie, ti fai, tanto vai con vita, non c'è problema, già si paga poco. Ma anche se vado a Vaticano, ti accaccio il culo al Papa, c'è il culo del Maccone. Però adesso vado a Roma per cudirci pure a Don Maccone e anche a Draghi, la mazza gliene varia. E poco non è nato, ma la bigliavola, poveraccio, quello si sta facendo il 4, il Papa, e tu non mandare via. Vado a fare a cosa, Renzi, tanto c'è la lentiera, hai capito? Gli hai un caccio i denti, così gli raddrizzi. Ma sono tutti magnaci, che cazzo, muore un mamma, ma che cazzo, mica Gesù Cristo andava con una coperta a vicchia, uno straccio addosso, ed è bianco e pieno di oro, ma che mi riesce a guru? Beh, veramente loro non ne ha il papà, loro ce l'ha Ratzinger, lui ce l'ha solamente roba in agenda, ha voluto quella. A Raccuccia di Mandà, come andava Gesù Cristo, la mazza di Nevaria, e con la coperta a strisce. E allora, mesci la mezzo, no, bianco va, la batta mobile da cazzo va, fa la mazza, mi te culo. Cazzo, vola qua, vola là, e però a Kiev non va andata, cos'è? Ancora il supposto in curvo le buttini. E va a Kiev, lo ammazzano subito, già lo sai anche tu, è quello che vuole il Papa. Non hai visto invece il coso, il patriarca ortodosso di coso, russo, i soldi che c'ha, ne ha pochi di miliardi dati da cosa, hai capito? Ma quello vorrebbe ammazzato, se questo è stato tutto è ammazzato vorrebbe, quello mi interpretano, quello è uno stronzo. Comunque Draghi è entrato per rovinare l'Italia, bastardo che non è altro. Doveva andare a Kiev, ha giocato così, non ammazza. Hanno messo qualche supposto a Kiev, se ne è fuggito, non vai manco per tutto e se ne è andato in America, cuglionazzo. È un pezzo di merda, per me li auguro che gli venga un infarto e non, domani non si rimisano in manco. Guarda, secondo me di iniziare a dare le armi, diciamo, all'Ucraina. Allora non vuole la pace sul pezzo di merda. Più armi dai, più guerra continua e più morti miserabili. La morte umana di vecchia è dopo. Purtroppo è così, Tony. Loro stanno dando armi anche l'Italia, gli sto dando le armi. Ed è sbagliato, perché una volta che finiscono le armi che non vuole più nulla e la guerra si ferma, invece no, li sono ai mendi per andare a Danarsi, ma cosa andi a Danarsi che sto ammazzando più di i civili stanno ammazzando, no a loro. E allora poi caso strano, la Spagna, la Germania, la Francia, ma non li senti neanche nominare. Il tuo cazzo di Draghi rompendo le balle, sempre rompendo le balle contro la Russia e le armi, quello, quell'altro, ma che non si ammina in cu. Guarda, se arriverà a succedere casino contro l'Italia, per colpa di questo cazzo di Draghi, il tuo campo di cazzo. Allora, Tony, forse non abbiamo capito niente, che Draghi è entrato per rovinare l'Italia, come ha fatto in Grecia, ma Grecia l'ha rovinata, l'ha buttata la fame, e così è fendo in onga. E allora, è un pezzo e mezza, purtroppo l'hanno voluto, su cazzo del PD, poi questo Letta, mette le mani che dà sempre ragione a Draghi, ma che non viene a muri volendo il suo guascio, va un campo di lusso, muro. Chi è il suo figlio di Appiccardo, a Cabingiosso? Ma guarda che a Torino la televisione che cose non li biate, non intendi vero a Torino. Oh, ma guarda, tutti i giorni, appena accendi, ci sono i talk show. Noi, il coglione di terra, solo di quella televisione, la verità. Cazzo, Giretti che se ne va a casa di Russia, lo avvelenano, perché l'hanno avvelenato, cazzo. Più, cazzo, tutti gli altri, cazzo, non ce la fai, cazzo, tutti i giorni, cazzo. Cosa me ne frega un cazzo, me dell'Ucraina, del coso. Tutti i giorni, cazzo, con questa storia qua. La Rai, la Fininvest, prima il lockdown, poi adesso questo, cazzo. A un certo punto, fa poco ci serve Bagliotto, lo dico io, guarda. Si dimentica, cazzo, della guerra in Ucraina, ci serve Bagliotto. Vedrai tu la scena, cazzo. Non sanno solamente parlare l'altro, basta, a un certo punto che la televisione vuole pensare, chiusa, a un certo punto staccata l'antenna, poi vengono quelli della Rai, lei deve pagare il canone, di che cosa? Io non ho niente, non ho né antenna, né televisione, un cazzo, io uso i videogiochi a casa, perché nelle balle piene si tira, c'è tutti i giorni sempre le stesse stronzate, più che stronzate non si sentono adesso. Tutti i giorni di questa cosa, cazzo, la 7 la 30, la 5, rete 4, l'Italia 1. Ah, fanculo, cazzo, si legge. Parlate di Paccioccio, cazzo, parlate di qualche altro, ma non di cazzo di tutte queste cazzo coglionate qua, basta adesso, cazzo. Prima c'è la televisione, sempre coronavirus, e non finirà più. Avanti l'Ucraina. Poi siccome il coronavirus è una piazza di ormai siamo usciti fuori dalla un casino, adesso c'è il vaiolo della scimmia. E le macchine di mostra in capo in curuete, muro. Sì, ma tutti i giorni se ne inventano una, guarda. Adesso è finito, vedrai la questione dell'Ucraina, ci sarà il vaiolo, 500 casi, 700 casi, 26 morti, 50 morti, 100 morti, e poi la posta del vaiolo ci sarà la peste. Hai capito? Adesso siamo... Ormai siamo diventati così, i telegiornali, i talk show, tutto così, tale uguale. Adesso c'è il colera, in Ucraina, tu immagini adesso il colera, ma siamo a posto adesso. Se viene qui in Italia, ci fanno, lui nuovi ci fanno, dopo fanno solo quello che c'è.